perché con Pippo non c'è assolutamente problema. C'è stato uno scambio di un minuto neanche di opinioni. Tutti noi vogliamo il bene del Milan, ci mancherebbe che fosse successa una cosa simile. Riusciamo a vincere un trofeo che ci mancava da tanto tempo. Secondo me la nostra società meritava un riconoscimento. Adesso è il momento di anche di metterci la faccia e di rimanere uniti in quello su cui stiamo lavorando. Non dobbiamo mollare un centimetro. Tutti convocati di Carlo Genta. Make a better place with my own two hands. Cercato Balotelli, Handanovic, la palla lì. Che parata Handanovic! Ma che parata Handanovic! Che devo dire? Il mio lavoro è comunque. Non ti puoi aspettare che al derby non fai nessuna parata, qualcosa bisogna fare. Penso che è stata una bella partita per la gente che è venuta e che ho guardato a casa. 1-1 è giusto. Il primo tempo l'abbiamo un po' regalata, un po' non abbiamo giocato bene, però il secondo tempo ci abbiamo avuto reazione, anche Abbiati ha fatto una grandissima parata su Guarin, e c'è stato un po', diciamo, partita ping pong, noi un po' loro, e comunque secondo me pareggio meritato. Doveva essere, buongiorno amici convocati, 800 24 00 24, Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, meravigliosa la base su cui mi sono anche distratto, With My Own Two Hands di Ben Harper, con le mie mani, con le mie sole due mani ho salvato il derby, potrebbe cantare Handanovic, che è stato il migliore in campo, anche Abbiati bravissimo su quell'intervento. Doveva essere il derby di Balotelli, invece è stato, mi viene voglia di dire, quasi soltanto un derby illogico, come il calcio sa essere illogico. Inter disegnata malissimo nel primo tempo, e il Milan che ha fatto quello che logicamente ci si poteva aspettare, Milan che scoppia di salute fisica, che in questo momento è la squadra in migliori condizioni nel nostro campionato, ha devastato l'Inter sulle fasce, quelle fasce che non erano presidiate adeguatamente, ha trovato un meraviglioso gol con El Shaarawy, Balotelli ha ingaggiato la sua personale battaglia con Handanovic, battaglia poi persa. Ero molto preoccupato del clima, invece oggi devo dire una delle note più liete. Clima all'interno dello stadio assolutamente sopportabile, non dico apprezzabile, perché apprezzabile è un'altra cosa, però sopportabile. I fischi a Balotelli ci stavano, insulti da osteria, vabbè, fanno parte della maleducazione calcistica, però sono sopportabili. Altre cose, è spuntata una banana gonfia d'aria, come d'aria sarà gonfio il cervello di colui che la sventolava, però null'altro. Enrico Currò, inviato di Repubblica, nostro amico. Ciao Enrico. Ti saluto come al solito, eh? Ciao Mario. Adesso me ne invento una anche per te. Me ne invento una anche per te, così non mi freghi più. Senti, è stato soltanto un derby, no? Non il derby di Balotelli, non il derby degli insulti razziali, non il derby del sorpasso, non altre cose, non il derby della, come molti si aspettavano, della resa delle armi da parte dell'Inter. Bella partita, 1-1 tutto sommato corretto, il Milan perde una grande occasione. Sì, il Milan perde una grande occasione, ma a me sembra che più che altro sia stato l'Inter ad averne sfruttato una. perché tutto sommato poi la rimonta del campionato del Milan resta, non è che sia stata sminuita, anzi direi che il primo tempo così bello del Milan è un'ulteriore dimostrazione del fatto che la squadra sia davvero cresciuta, mentre l'Inter se avesse perso sarebbe davvero andata in crisi, e quindi devo dire che ha sfruttato al meglio l'occasione del derby. Nel secondo tempo partita più logica e il risultato più giusto e più illogico viste le forze in campo, perché oggi il Milan è la squadra che sta meglio nel campionato intero. Il Milan è più forte dell'Inter come organico, come organizzazione anche direi, e come individualità. La nota lieta, Enrico, quella che dicevo prima: chi si aspettava il linciaggio di Mario Balotelli è stato deluso, e lui si è comportato, a parte quell'uscita dal campo con la mano dove non doveva essere, complici gli insulti dei signori della tribuna, però lui si è comportato come doveva, diciamo che alla fine non si può neanche pensare che uno sia totalmente impermeabile a quello che gli succede attorno. Balotelli sappiamo benissimo che non lo è. Mi sembra che tutto sommato finora si stia abbastanza controllando, e devo dire che appunto se uno mette sul piatto della bilancia tutto, mi sembra che non sia stato il derby che si temeva dal punto di vista degli insulti, dal punto di vista delle cose che non vanno bene e che spesso purtroppo negli stadi continuano a non andare bene. C'è chi mi scrive: sopportabile Radio 24 razzista, direi oggi, scrive David da Verona, vorrei capire perché. Io non ho visto, non ho sentito dalla televisione, tu non so Enrico se hai sentito dallo stadio qualcosa di diverso dai soliti maleducati beceri insulti di cori dei nostri stadi, che però sono praticamente inevitabili. Cioè, vedi Carlo, io penso una cosa però che mi ha colpito molto ieri e anche stamattina poi nel vedere certe reazioni mediatiche amplificate. Io credo che siccome il nostro è diventato un calcio prevalentemente televisivo, la percezione che la televisione dà a volte di determinati episodi minimi, amplificandoli, distorca poi l'effettiva realtà. Io posso garantire, essendo stato allo stadio, ma poi non lo so, magari sbaglio, per carità, non pretendo di avere la scienza esatta, ma a me sinceramente, che frequento gli stadi da tanto tempo, non è sembrato assolutamente di aver visto nulla che non fosse, per così dire, nei termini dell'accettabilità, sì, o comunque dell'inevitabile. Ecco, cioè, io ricordo un derby in cui fu più violento l'attacco a Ronaldo. Esatto, la differenza è proprio quella. Ma a me è venuto in mente anche un'altra cosa. Io ricordo anni fa un Torino-Milan in cui ci fu una specie di invasione, di tentativo di invasione. Sì, ricordo. Visto dal vivo, visto dallo stadio, io mi ricordo che ebbi una discussione con i miei capi all'interno del giornale, non perché loro sbagliassero o viceversa sbagliassi io, ma perché loro vedevano dalla televisione un evento che veniva fortemente amplificato, perché in quel momento si vedevano 10 persone, 10 scalmanati che cercavano di prendere a calci, di rompere il vetro, presumibilmente per entrare in campo. Io non dico che quella fosse una bella cosa, ci mancherebbe, dico solo che quello che si vedeva in televisione rispetto alla realtà, in cui lo stadio era semideserto e c'erano soltanto quelle 10 persone, era incredibilmente amplificato. E io dico che forse sarebbe meglio, secondo me, che si tornasse un po' di più a pensare che il calcio è sì un grande spettacolo televisivo, ma che va visto anche molto dal vero, perché vedendolo dal vero forse si riesce anche a ridimensionare un pochino quello invece alla televisione sembra il triplo. Il caleidoscopio della telecamera è fuorviante, caro. Secondo me sì. Senti, io ti saluto con un ciao Diego, visto che è tornato in Italia. Vabbè, questo però è abbastanza, visto come chi era Maradona dal punto di vista del calciatore, poi ci sono anche altri aspetti. Comunque salutiamoci in modo normale. Ciao Carlo. Ciao Enrico Curro, grazie. Ciao. 800 24 00 24, naturalmente adesso aspetto voi, fate presto perché oggi abbiamo qualche minuto in meno, perché dalle 15 secche precise inizia una lunga maratona elettorale. che durerà fino alla fine dei tempi. Domani non ci sentiamo, già ve lo anticipo, perché dalle 14 alle 15 ci sarà appunto questa, continuerà questa maratona, ma mercoledì di nuovo qui come sempre. Tutti convocati. Take your time. Buongiorno a tutti convocati, cominciamo. Filippo e Carmine, 800 24 00 24, vostro numero verde, messaggi 349 238 6666. Il migliore dell'Inter, Livaia, scrive Giancarlo. Ieri doppietta per lui, primo gol facile, secondo mica tanto su quella neve. Il Torino può ritenersi abbastanza tartassato dagli arbitri o no? Ieri ci stava un rigore per il Toro, poi Ogbonna ci ha messo del suo, e su quelle due decisioni penso ci sia non tantissimo da discutere. Filippo, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. No, io avevo chiamato perché volevo sottolineare un po' la prestazione dell'arbitro in Milan-Inter, anzi Inter-Milan. Mi è sembrata una prestazione all'altezza, quindi volevo assolutamente, bravo. La positività dell'arbitro, non diciamolo facile. Una volta tanto, una volta santa che abbiamo un arbitro che ha arbitrato bene, nessuno può dire nulla, diciamolo. Anche perché non so, io sono tifoso milanista, ad un certo punto Montolivo è andato un po' fuori di testa, era una partita nervosetta, comunque è stato bravo anche per quello, perché era una partita nervosetta, non ti aspetti quelle reazioni da Montolivo, segno che insomma il nervosismo sotto la pelle c'era, non solo sotto quella di Balotelli, che l'ha sentita molto questa partita, e glielo si leggeva in faccia, perché non aveva, dietro quella solita maschera da sbruffoncello, si vedeva che c'era una certa tensione. Molto bravo l'arbitro, in effetti, Filippo, il migliore in campo insieme ad Handanovic. Sì, sono d'accordo, anzi, anche su Balotelli, guardi, io sottolineerei il fatto che, guardi, vabbè, io sono tifoso, come dicevo, milanista, non ha segnato, ovviamente se avesse segnato sarei stato contento, ma il fatto che lui non abbia reagito, devo dire, anche i tifosi interisti si sono comportati in modo, secondo me, e diciamo impeccabile, per quanto possa essere usato questo termine, sì, allo esatto, stadio esatto. Però io credo che questo è da sottolineare, va bene così, insomma, vuol dire, la prossima volta sarà andrà meglio, insomma, in questo momento, conoscendo Balotelli, questo secondo me è il massimo che possiamo ottenere. Sì, sono d'accordo, bravo Filippo, grazie. Allora, grazie, salve. Allora ragazzi, so che state aspettando l'esito delle elezioni, no? Che siete lì che fremete, incrociate le dita, fate... però chiamateci, perché dopo le elezioni e avrete questo specialone infinito fino alla fine dei nostri giorni, ma adesso c'è questa puntata di Tutti Convocati in cui stiamo parlando del derby, ma anche di una giornata che cosa volete dire di questa giornata? Al di là del Catania, che è incommentabile, no? Mi pare, per l'andamento del suo campionato, è anche bellissimo da vedere, domenica c'è Catania-Inter ed è una partita che vale la Champions League, a dimostrazione di quanto il calcio possa essere bizzarro e meravigliosamente illogico, ma è una giornata incommentabile perché la Juventus batte il Siena come fanno le grandi squadre, e adesso bisogna vedere cosa fanno Lazio e Napoli stasera in questa polvere di calendario. 800 24 00 24, numero verde, Carmine, Reggio Calabria. Poi vediamo anche il podio delle dichiarazioni domenicali carine anziché nostra settimana. Carmine? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Salve, senta, io le volevo chiedere un suo parere, no? Ieri ho visto la partita Atalanta-Roma, io sono un tifoso romanista, e mi riflettevo che la Roma, da quando c'è questa nuova proprietà e con questa nuova dirigenza, a livello di giocatori li hanno azzeccati quasi tutti gli acquisti, e secondo me quello che hanno sbagliato sono gli allenatori, Luis Enrique l'anno scorso, Zeman quest'anno. Io così sono convinto, poi lei mi può smentire, che se quest'anno invece di Zeman sulla panchina della Roma ci fosse stato qualche altro allenatore, la Roma... Mi faccio un nome a caso. Ma guardi, io direi Montella, come potrei dire anche Pioli. Per forza. Carmine, ma Montella era già lì. Era stato levato al Catania, sborsati anche dei quattrini, mi risulta. era già lì pronto ad allenare la Roma, gradito a tutti quanti, ambiente, giocatori eccetera eccetera, era un ritorno, è un allenatore emergente, fa un calcio bello e pratico, bello, pratico e intelligente come si dimostra a Firenze. La Roma va per forza a ricercare strade, strade tortuose, curiose se vogliamo, e si trova in una posizione di classifica che quell'organico certamente non rispecchia per difetto. Insomma, la Roma come organico dovrebbe stare per forza dove c'è il Catania, ma anche dove c'è l'Inter, dove c'è il Milan, dove c'è il Napoli, perché l'organico vale queste squadre. Dunque, dopo Carmine da Reggio Calabria c'è Alberto da Macerata, Paolo da Napoli, però io comincio a scalare i gradini del podio, dichiarazioni top della domenica, terzo gradino del podio per Antonio Conte e un famoso gelato. E io sono pronto ad andare contro tutti, che sia chiara sta cosa, contro tutti per difendere dei giocatori che ci stanno facendo sognare. Venivamo da 2 settimi posti, non c'era la UEFA, non si partecipava all'Europa League, non eravamo presenti a niente se non alla Coppa del Nonno, quindi questi ragazzi vanno rispettati tutti. E Conte se la prende un po' con un ambiente che, ma già nei giorni scorsi è uscita questa cosa, pare un po' imborghesito in attesa di partite, di grandi partite, un pubblico che forse comincia ad avere un po' la puzza sotto il naso, dicono alla Juventus. Alberto? Sì? Macerata, buongiorno. Sì, ciao. Ciao. Dimmi. Sì, buongiorno a tutti. Niente, volevo parlare di questa giornata perché secondo me nel derby le due squadre hanno dimostrato un molto fair play. Perché anche l'aspetto di quando Zanetti poi ha ripreso Balotelli, che era più distratto da quello che succedeva fuori rispetto a quello che succedeva in campo, una cosa secondo me abbastanza positiva. Sì, sono d'accordo. Non ha fatto esasperare gli animi e quindi secondo me questo pure è da rimarcare, come lo stesso Montolivo che quando si è un po', diciamo, è tornato in sé ha cercato cambiarsi all'inizio del secondo tempo. Sì, questo è meno sorprendente. No, ma è stato, Alberto, hai ragione, è stato un derby caratterizzato da molto nervoso ma caratterizzato da grande fair play tutto sommato in campo. Merito dell'arbitro che, dicevamo prima, lo ha tenuto in pugno in maniera impeccabile, merito dei protagonisti, e qualche merito lo voglio dare anche a Balotelli, perché lo sentivo in maniera particolare, perché non è nuovo a reazioni isteriche che non ci sono state, quindi da questo punto di vista un derby vero e molto bello, come devono essere partite di questo tipo. Paolo da Napoli. Pronto? Pronto Paolo. Buongiorno. Buongiorno. Gli argomenti da parlare ne sarebbero tanti, però da napoletano... Scegliamone uno. Da napoletano e tifoso per la Roma, cosa strana che succede a Napoli. Volevo fare un passaggio su... sentendo anche ieri le trasmissioni sportive. Adesso salgono tutti sul carro dei vincitori del nuovo allenatore, di Andrea Azzoli. Un carro piccolino, perché vabbè, vinto normale, un paio di partite, però sai, vincere contro la Juve da romanista, non sì, da romano, sì, sì, da romanista, no, questo ci sta, questo ci sta. Però domando, io che seguo le partite, purtroppo le vedo quasi sempre, le ultime io ho visto proprio una squadra svogliata, non le ultime quelle di Andrea Azzoli. Non sono poi d'accordo, perché poi deve pagare sempre l'allenatore? Cioè, secondo me Zeman, che è un ottimo allenatore, però ha pagato lui per tutti, come spesso accade. Ma evidentemente la squadra non lo seguiva più, no? Seguiva più. Se lei ha visto una squadra svogliata, la risposta in Reeves, mi pare. Se ha visto una squadra svogliata e adesso vede una squadra che batte la Juventus e che ieri in condizioni difficili vince... in quel modo a Bergamo, mi pare che la risposta si stia nelle cose, quindi io ho la sensazione che con Zeman ci fosse un certo scollamento all'interno dello spogliatoio, all'interno di quel gruppo, e con Andrea Azzoli invece, almeno per il momento, mi pare si remi tutti nella stessa direzione, quindi è chiaro che nell'atteggiamento è una Roma diversa, e lo dice lei correttamente, peraltro condivido, si vede onestamente ad occhio nudo. Secondo gradino del podio, secondo gradino del podio per l'ennesima girandola, l'ennesima meravigliosa girandola di Palermo. E Zamparini, e Gasperini, e Malesani, e adesso il Gasperini bis. Chissà se sarà l'unico bis di questi giorni, non lo so, però in questo caso è reale. La domanda è questa: siamo sicuri che facciamo bene a separarci, cioè a non stare più insieme? Stiamo insieme tutta la settimana, almeno la domenica, ognuno per gli affari propri, no? Credo a questa squadra, mi ha dato il senso. Adesso io sono qua da 3 settimane e lavoro da 2. Vedo miglioramenti, non vedo peggioramenti. Diciamo che mi sono servite anche queste 2 settimane per definire un po' ruoli, definire gioco, eccetera. Ora mi sento di avere armi importanti per poter raggiungere la salvezza. Io non penso sia tanto la colpa di Lomonaco quanto dell'allenatore. È l'allenatore che gestisce i giocatori, non il direttore sportivo. E Gasperino non è un allenatore sul quale gli puoi mettere tanto i piedi in testa. Sono scelte di Gasperini sbagliate. E una lacuna grave di Gasperini, aver allontanato 6 o 7 giocatori, o 8 giocatori, da lui trascurati completamente. Una squadra è fatta di tutto il team, non puoi ghettizzare alcuni giocatori. Dear ladies and gentlemen. Dunque, la colpa di Gasperini, però adesso è stato richiamato e Malesani, che si sentiva finalmente dentro questa squadra, è stato cacciato. Beh, cose che succedono, magari solo a Palermo, ma cose che succedono. Tutti convocati. Voglio voi, voglio le vostre voci. I want you. 800 24 00 24, numero verde. Siamo rimasti in sospeso col primo gradino del podio. Dichiarazioni della domenica. Vince la medaglia d'oro finto stavolta Lichtsteiner. Si dice a dire tiro avanti al televisore, si dice normale, un guscio di culo un po' fortunato. Non si sente benissimo, ve la faccio riascoltare, eh? Aprite bene le orecchie. Ce l'hai? Non ce l'hai? Ce l'hai? Si dice a dire tiro avanti al televisore, si dice normale, un guscio di culo un po' fortunato. In romano, traduco, in romano si dice buccio di culo un po' fortunato, dice lo svizzero Lichtsteiner a proposito del primo gol. E d'altra parte è così, cioè è nella realtà dei fatti. Se l'avete visto, in traduzione di Vucinic, malamente smanacciato da Mirante, che spara la palla sul ginocchio di Lichtsteiner, che era lì in corsa, quasi, non dico per caso, però passava di lì in corsa a vedere se si poteva raccattare qualcosa, gli sbatte il pallone sul ginocchio e la palla va in rete per l'1-0. Francesco Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo segnalare che sul rinvio di Abbiati, scandaloso come sempre fa quando un compagno gli appoggia dietro la palla, la palla è andata poco, neanche oltre la metà campo, e da lì è nato il fallo laterale che ha creato il gol dell'Inter. Sì. L'Inter avrebbe segnato lo stesso, però io, come ho visto Abbiati rinviare così male come fa sempre, ho detto qui ci segnano un gol su questa ennesimo rinvio non proprio felice del Francesco. La buttata, Abbiati ha fatto, la buttata lì se l'è un po' tirata, perché insomma dire adesso ci fanno il gol per un rinvio maldestro di Abbiati che spara in fallo laterale a metà campo, però mi sembra eccessivo. Però lo fa spesso, cioè non ha dei grandissimi piedi. Ecco, lui si fa prendere non so da cosa, non era pressato da nessun avversario e ha fatto il rinvio che come sempre gli capita. Questa volta è stato un po' sfortunato. Maldestro. Vabbè, ma sì, ho capito, però nessuno, pensavo che qualcuno lo facesse notare. No, ma sì, vabbè, però se facciamo notare tutti i rinvii sbagliati di Abbiati da cui non scaturiscono gol, è stato insomma un episodio nato così, però io credo c'entri poco quel maldestro rinvio di Abbiati nello sviluppo dell'azione, insomma. Credo c'entri di più magari una certa distrazione dei centrali del Milan su Schelotto, che è riuscito a saltare indisturbato quanto basta, per trovare quel gol. Grazie Francesco. 800 24 00 24, non mi pare abbia torto Fede da Alessandria, che scrive: Zamparini sbaglia impostazione, dovrebbe iniziare la stagione con una rosa di tecnici tutti lì e affidare squadra all'uno all'altro a seconda del periodo. E non scherzo, scrive il nostro ascoltatore, e non scherzo, quindi ne ingaggia 4 o 5, li tiene tutti lì, magari allena, li fa a ruotare negli allenamenti uno al giorno, un paio al giorno, o uno allena la difesa e l'altro l'attacco, e poi la domenica, come per i calciatori, decide chi va in panchina. Può essere un'idea. Gigi, Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiedere il suo parere su questa mia considerazione. Sono tifoso del Torino e concordo quando si afferma che nel corso dell'annata i torti subiti e le agevolazioni avute poi alla fine si possono bilanciare, non so se pareggiare. Però la mia considerazione parte da questo presupposto: se la società, se il Torino, se l'allenatore Ventura, se Stimo, non iniziano a rimarcare precisamente questi torti, credo che sapendo come può funzionare il mondo del calcio sia poi difficile che il dare ed avere possano equilibrarsi. Quindi lei dice comincino a strillare. No, io penso il contrario, Gigi. Io penso che invece più stanno zitti più hanno il mio apprezzamento e la mia solidarietà, perché le cose sono sotto gli occhi di tutti, quelli che strillano già tutti gli altri. Invece la compostezza di Ventura gli fa assolutamente onore, quindi poi le sviste le vediamo tutti, le sviste le vedono i designatori, non è il caso di andare lì a fare il solito teatrino. E ci manca un rigore, e se ci davano quei 4 rigori in più avevamo un'altra classifica. Invece io penso che il comportamento di Ventura e anche di Cairo in questo momento sarebbe da prendere ad esempio da parte di tutti gli altri. Quindi il discorso lo considero esattamente ribaltato e rovesciato rispetto a quello che fa lei. Non mi fate sentire, raga. Mi si spezza il cuore con questa canzone. No, siamo a Isarenas, non siamo nello studio di Milano, ma abbiamo preso la DeLorean, la macchina del tempo, e siamo a Isarenas ieri pomeriggio, quando in uno stadio deserto c'erano 200 persone tra dirigenti comunali, quelli che comunque riescono sempre ad entrare, quelli che aspetta che ti porto io, parenti dei giocatori, quelli che vabbè lo stadio è chiuso ma tanto io conosco l'assessore ai lavori marittimi, e insomma 200 persone, a un certo punto si alza. E chi a Wish You Were Here se non Cellino, che è ancora ospite delle patrie prigioni per le ben note vicende. Poi c'è ovviamente pagina da libro cuore sulle note di questa meravigliosa e struggente canzone, Conti, che segna. E poi and the Oscar goes to... Posso spazio per andare a cross, Conti! Il pareggio del Cagliari! Il Cagliari prova a crescere fino alla fine, conclusione, la deviazione, gol di Conti! C'è stata la deviazione decisiva, ma il gol è di Conti! Chi va la dedica? Ah, sicuramente è mio figlio, è la prima volta, dopo mi viene da piangere, è la prima volta che è a bordo campo, ho fatto doppietta e adesso lo porto sempre. No, lui me l'ha chiesto in settimana, mi ha detto papà vieni a fare a Cattapal. Quindi sono contento, ecco, perché l'ho dedicato a lui, perché ci teneva tanto, ecco. Anche lui ci è sembrato commosso, ti è sembrato? Dai, basta, veniamo qua e non ce la faccio più a porla, mi ha da piangere. Possiamo approfittare un attimo della tua autorizzazione per chiedere un'emozione a Bruno, perché non capita tutti i giorni di vedere il padre segnare e fare da raccattapalle, com'è? Sei contento? Sì. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo, no, tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io, tu hai un dono. Tutti convocati. Salve direttore. Direttore, a chi? Fatti bravi. Filippo da Pavia, poi un altro pavese, Stefano, 800 24 00 24, abbiamo ancora 5 minuti e poi c'è il GR e poi alle 15 secche inizia il fiume dello speciale elettorale. Filippo, buongiorno, sono Filippo da Pavia. Ciao. Volevo parlare del derby Cantù-Varese, sì, di basket, volevo chiederle un commento, soprattutto sul fatto, quello sottolineato anche dagli stessi commentatori della RAI, che il pubblico di Varese non ha potuto presenziare la partita, perché visto il derby, visto le elezioni, non c'erano forze d'ordine sufficienti per garantire la sicurezza. Sì, nonostante la messa a norma, allora, del campo con la famosa gabbia e quant'altro. No, una tristezza assoluta. Questa è una tristezza assoluta, l'assenza degli spettatori, un sacco di concomitanze. Però io dico questo, che mi fa imbestialire. Allora, non c'è la possibilità di piazzare una partita di pallacanestro così sentita, così bella, così importante per il campionato, ma per il basket italiano, perché è un derby vero, uno dei più sentiti, è un derby storico. Allora, dobbiamo proprio metterlo in concomitanza con questa domenica in cui, con contemporaneità temporale, tra l'altro, più o meno, perché un quarto d'ora o mezz'ora di sfasatura non cambia nulla. Dobbiamo proprio piazzarlo lì. Non lo possiamo giocare magari con un colpo di genio il sabato sera, che alla stessa ora, che magari cambia qualcosa, o il sabato pomeriggio alle 18, quando non c'è nemmeno l'anticipo di calcio alle 18, perché questa settimana non era previsto. È possibile che non ci siano i modi, i tempi e gli spazi per prendere una decisione di questo tipo e permettere agli spettatori magari di andare, per permettere ai telespettatori di guardare una partita come questa? Invece no, lo piazziamo in contemporanea con Milan-Inter, nella domenica elettorale, e sbarriamo le porte ai tifosi di Varese, e questo derby che Cantù ha vinto, che è stata una partita bellissima, non l'ha vista in televisione. Voglio vedere i numeri, ma quasi nessuno. E questo mi fa veramente arrabbiare come una bestia. Stefano. Buongiorno. Pronto? Pronto, ciao. Ciao Carlo, sono Stefano da Torino. Da Torino. Ti volevo solo parlare di due cose velocissime. Sì. La prima, come stavi già dicendo tu, penso che il Toro abbia bisogno di più considerazione, più che altro perché sta facendo un gioco buono e ha un'identità di gioco differente di tanti altri. Mm. Poi per i rigori, vabbè, per forza, se ti difendi spesso dietro la palla in 10, per forza un po' di rigori li prendi, quindi gli arbitri pensano non c'è più niente. Un po' di rigori li prendi, un po' di rigori dovresti anche averli a favore, magari non te li danno. Però, ripeto, il Torino sta facendo un campionato meraviglioso, soprattutto in trasferta, sta facendo un campionato meraviglioso, sta anche giocando un discreto calcio. Ventura sta facendo uno splendido lavoro e torno a ripetere, come anche in parte la Fiorentina, che si era comportata più o meno come il Torino, però benissimo fa il Torino a lasciar passare, non dico sotto silenzio, ma a dire guardate, sono lì, siamo un po' sfigati con gli arbitri in questo periodo, verranno periodi migliori, e questo mi sembra un atteggiamento assolutamente da condividere invece di andare a strillare a destra e a manca. Gennaro, Napoli. Buongiorno. Mi dica. Buongiorno. Buongiorno Gennaro, dica. Allora, volevo una considerazione. Può essere che, visto i risultati non così come a inizio campionato della Juventus, che Napoli, diciamo, si è fatto condizionare così tanto da poi lasciare così l'Europa League, sì, in modo così, diciamo, palese, perché magari i giocatori hanno capito che potevano comunque recuperare i punti di svantaggio della Juve, sì, oppure i passi falsi. Sì, io credo che il Napoli, al di là di tante chiacchiere, di tante dichiarazioni finte, abbia insomma si sia tirato fuori dall'Europa League, perché perdere 5-0 con il Pilsen non ci sta. Adesso stasera una partita chiave a Udine, vedremo se il malessere del Napoli è passato o se invece esiste ancora, e la Juventus sarà spettatrice interessata, tanto più che tra una settimana c'è il confronto diretto del San Paolo con Maradona presente. Vi saluto amici convocati, ascoltatori, adesso GR, poi lo speciale elettorale, domani non ci siamo perché si parlerà di elezioni, ma mercoledì sì, per Bacco, tutti qui. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti.